quando verrà l'inverno e con suo freddo ti avvolgerà, chiusa nella tua stanza, sapore d'estate tu cercherai. Cercherai, le mie avrai e le mie l'avrai. Tu cercherai e sumierai cui non ti va. C'è un'altra estate, soffocherà e nostro amore. Io ti prego, amore mio, ti prego, ricordate di me. Amore mio, ti prego, ricordate di me, ti prego, amore mio, ricordate di me.